双辅音。 bello, bello, carro, carro, rosso, rosso, tacco, tacco, donna, donna, mamma, mamma, babbo, babbo, guerra, guerra, caro, caro, carro, carro, eco, eco, ecco, ecco, capello, capello, cappello, cappello, camino, camino, cammino, cammino, moto, moto, motto, motto, pala, pala, palla, palla, sete, sete, sette, sette, nono, nono, nonno, nonno, bruto, bruto, brutto, brutto, casa, casa, cassa, cassa, copia, copia, coppia, coppia, dita, ditta, ditta, ditta, pena, pena, penna, penna, vile, vile, ville, ville, sera, sera, serra, serra, tono, tono, tonno, donno, note, note, notte, notte, base, base, basse, basse, fato, fato, fatto, fatto, acqua, acqua, acquazzone, acquazzone, acquolina, acquolina, acquedotto, acquedotto, acquavite, acquavide, acquario, acquario, occhio, occhio, tetto, tetto, donna, donna, palla, balla, cassa, cassa, cappello, cappello. 练习 valle, valle, tassa, tassa, nulla, nulla, tutto, tutto, cassa, cassa, nonna, nonna, nessuno, nessuno, eppure, eppure, fatto, fatto, uno, uno, due, due, tre, tre, quattro, quattro, cinque, cinque, sei, sei, sette, sette, otto, otto, nove, nove, dieci, dieci, venti, venti, trenta, trenta, quaranta, quaranta, cinquanta, cinquanta, sessanta, sessanta, settanta, settanta, ottanta, ottanta, novanta, novanta, cento, Cento. Mille. Mille. Anna non è una donna cattiva. Mettiti un po' nei panni degli altri. Sono 8 rose rosse fresche. Sono cose fritte e rifritte. Mi ha obbedito senza riluttanza. La spagnola. Di Spagna sono la bella. Regina sono dell'amor. Tutti mi dicono stella, stella di vivo splendor. Stretti, stretti nell'estasi d'amor, la spagnola sa amar così, bocca e bocca, la notte e il dì. Torre pendente. Yanyu. Proverbi. Dare orecchi a tutti e voce a pochi. Fatta la legge, trovato l'inganno. Abbandonare l'errore e mettersi sulla retta via.